Now boarding. Now boarding. Welcome to the radio connection. This is Carmen Rose. At the drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shubidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te. At the drive. Now Boarding Radio su Radio Sandona www.radiosandona.it in FM sui 102.200. Benvenuti, buonasera da Francesco. Nuovo appuntamento settimanale col programma che vi racconta il mondo con gli occhi degli italiani all'estero. Questa sera Now Boarding, grossa carenza di anticorpi. Strano ma vero, tutto il nostro staff, quindi gli altri quattro conduttori, gli altri tre conduttori sono tutti con l'influenza, quindi puntata in solitaria per me, purtroppo questo vi tocca, mi dispiace per voi. Quindi beh, per fortuna come al solito avremo sempre un ospite che mi farà un po' di compagnia, andiamo quindi con la prima traccia. Come al solito la prima traccia è quella che dovrebbe farvi un po' indovinare la meta, questa volta era semplice, Alphaville con Big in Japan, traccia un po' coverizzata un po' da chiunque, quindi puntata extra europea per Now Boarding, ovviamente in Giappone e di preciso a Tokyo, dove noi dovremo avere Giovanni. Ciao Giovanni! Ciao, buongiorno a tutti! Benvenuto, come stai? Grazie, bene bene! Tutto bene? Una bella serata qui a Tokyo, invernale! Infatti abbiamo dovuto cercare un po' un compromesso d'orario, dato il fuso orario, appunto, e ce l'abbiamo fatta, ecco. Allora, Giovanni, noi qui dobbiamo, sai che la burocrazia di Nowboarding è bella macchinosa, quindi dobbiamo aprire la tua pratica e abbiamo bisogno di un po' di informazioni, ci stai? Certamente, assolutamente. Ti facciamo il nostro terzo grado. Allora, intanto, età. Va bene. Età. Sono del 75, quindi ho 36 e tra poco compirò 37 anni. Ok, di dove sei? Sono di Torino. Ah, di Torino, beh, quindi da buon torinese sei rimasto fedele alla Fiat o sei passato a Toyota in Giappone? Ma in realtà io non ho un'automobile perché Tokyo è ben servita. Comprerei una Fiat, però stando qui comprerei una Toyota probabilmente. Comunque è risolto il problema non prendendo un'auto e quindi... Sì, qual è la rete dei treni è molto molto efficiente, quindi vivendo a Tokyo non c'è assolutamente bisogno di avere un'automobile. Certo. Ci chiami da casa o sei fuori? No, sono a casa. In che zona sei? Vivi a Tokyo? Allora, io abito nella zona di Tokyo Ovest, che è, diciamo, la zona relativamente nuova, e noi abitiamo in una zona che è un po', insomma, sono un po' i sobborghi di Tokyo, ed è una zona che si è sviluppata indicativamente dagli anni 60 in poi. Ho capito. Da quanto tempo sei in Giappone tu? Allora, sono in Giappone in pianta stabile dal 2003, quindi 9 anni. Quest'anno, esatto, a gennaio ha fatto 9 anni, però arrivai nel 1997 e dal 97 al 2000 sono stato qui come studente, quindi non in pianta stabile. Poi sono ritornato in Italia nel 2003. Sono ritornato con mia moglie, che tra l'altro è giapponese. Ho capito. Beh, allora abbiamo un esperto di Giappone. Abbiamo trovato la persona giusta stasera. ma speriamo. Sì, ne sono certo. E, sei sempre stato a Tokyo o hai vissuto anche in altre città? Allora, sono sempre stato a Tokyo, però mia moglie, non essendo di Tokyo, mia moglie è di una città che si chiama Hamamatsu, che è sulla costa ovest, pardon, est del Giappone. Ah, ok. Ed è più o meno a 200-300 km sud rispetto a Tokyo. Quindi ho avuto la possibilità di vedere anche altri posti, diciamo, non Tokyo. E non, diciamo, vivendoci in pianta stabile, però ho avuto modo un po' di, come dire, vedere un po' lo stile di vita in altre città, certo, diverse da Tokyo. Certo. Cos'è che ti ha portato in Giappone? Allora, all'inizio io volevo, non, mai più pensavo di venire a vivere in Giappone, e volevo fare la guida turistica, visto che il nostro paese è ricco di, insomma, bellezze artistiche, posti da visitare. Volevo fare la guida e volevo avere una lingua, oltre al francese e l'inglese, che comunque in Italia sono abbastanza conosciute, volevo avere quella, diciamo, marcia in più. E allora ho iniziato a interessarmi al giapponese. Sì. E, diciamo, questo mi ha portato appunto a venire in Giappone a studiare la lingua in loco. Ho capito. E ora cosa fai a Tokyo? Io adesso lavoro per una ditta inglese che produce giocattoli e articoli da modellismo, che li importa e li vende nel paese. Ho capito. Però dimmi. Lavoro in un ambiente però completamente giapponese, perché io sono l'unico non giapponese all'interno della ditta. Ho capito, sei la pecora nera del... Praticamente, sì. E torni spesso in Italia, da queste parti? Ma cerco di tornare una volta all'anno. Ho capito. Più che altro per mantenere, per la mia sanità mentale, perché sennò credo che darei i numeri. Ogni tanto l'aria di casa ci vuole. E poi io ho una figlia piccola e voglio che impari bene l'italiano, e allora vorrei almeno una volta l'anno cercare di stare un po' in Italia, in modo che si faccia l'orecchio alla nostra lingua. Certo. Quindi, insomma, è rimasta una buona parte di Italia in te, no? Non sei ancora totalmente trapiantato. No, non sia mai. Non cambierà mai. No, ma poi c'è anche da dire che il Giappone, poi magari più avanti nell'intervista ne parleremo, una realtà, è molto difficile integrarsi. Ho capito. Questo ce la racconti allora esattamente. Esatto. E quindi comunque la mia italianità rimane sempre comunque molto ben radicata. Dominante. Esatto. Ho capito. Bene, allora il tuo fascicolo noi l'abbiamo aperto, sei entrato nel sistema Now Boarding. Andiamo avanti con la seconda traccia. Devo dire che non siamo troppo ferrati sulla musica giapponese, quindi abbiamo detto, beh, stasera facciamo una carrellata di canzoni che hanno Tokyo nel loro nome, e ce ne sono parecchie, vedremo. A dopo. Osaka crying for you, shipping the light, sinking the water, sending ticket to die, ticket to ride, the jumpstart, shielded in white, a Kansai girl in black. Sonic Youth, questa era Tokyo Eye. Allora Giovanni, raccontaci un po', ci siamo sentiti via mail, mi dicevi che volevi un po' trasmettere un po' quest'idea, sfatare anche alcuni miti sulla cultura giapponese, giusto? Sì, perché comunque, almeno ma non solo in Italia, comunque particolarmente nel nostro paese c'è un po' questo mitizzare il Giappone, c'è chi magari lo dipinge come un posto favoloso, e c'è magari chi lo vede come un posto, come insomma, come se fosse Marte, per esempio. Però sì, secondo me per molte cose ha ovviamente i suoi lati positivi e i suoi lati negativi, come tutti i paesi. Stereotipo, cioè, non so, mi viene in mente, noi ci immaginiamo in qualche modo i giapponesi, il Giappone, come persone molto inquadrate, molto ligi al dovere, molto in questo senso. Sì, quello lo sono, generalmente lo sono. Però non è che lo facciano magari per... A volte una cosa che per esempio mi stupisce è che magari molte persone non è che lo facciano per convinzione. Molti lo fanno perché tutti fanno così. Ah, ok. Quindi a volte un po'... Insomma, io mi trovo magari un po' a scontrarmi, perché magari cerco di ragionare sulle cose, cerco di capire il perché delle cose, mentre magari altre persone non si pongono nessun tipo di domanda, che fanno le cose perché vanno fatte in una certa maniera, per esempio. Certo, perché è appunto il modo di farle. E quindi il primo impatto com'è stato? Ma allora, il primo impatto, diciamo, nel 97 da studente, io sono arrivato molto entusiasta del Giappone perché mi interessava moltissimo, e da un certo punto di vista, nonostante insomma capissi che comunque era diverso, non mi rendevo conto di quanto effettivamente sotto alcuni aspetti sia diverso, nel senso che ovviamente venendo qua gli edifici sono comunque moderni, quindi sono, diciamo, di tipo occidentale. Le persone si vestono all'occidentale, ovviamente vedi magari qualche donna soprattutto che magari per qualche occasione si mette il kimono o queste cose qua, però è comunque una cosa molto rara, quindi ti sembra di percepire come dire, un ambiente che è simile a quello che conosciamo noi. Cioè, ma molto occidentalizzato. Esatto, ma però scavando ti rendi conto di come non lo sia. Del tipo? Adesso farti un esempio non lo so, però non so come dire, ti... ok, adesso questo è un esempio magari un po' strampalato. Per esempio qua una parte della cultura è di andare a bere con i colleghi dopo il lavoro e sbronzarsi. Sì. E a volte vedi magari delle persone, cioè degli uomini magari anche di 50-60 anni completamente ubriachi sul treno. È un giapponese ubriaco, non l'ho mai visto, infatti... Mamma mia, sono terrificanti. E da noi per esempio è una cosa che vedresti molto meno, perché uno magari l'età delle sbornie magari finisce ai 30 anni, per dire. Certo, certo, quindi magari noti appunto queste differenze. E integrarti, esatto, in genere com'è stato? Inserirti in questa, allora, società? Diciamo, secondo me una grossa... Allora, io personalmente non mi considero completamente integrato, però rispetto magari a altri occidentali che vivono in Giappone, mi sento magari un po' più integrato. Una cosa enorme è ovviamente la conoscenza della lingua. Mm-hmm. Perché se sai parlare la lingua del posto, è ovvio che è molto più facile integrarti, è molto più facile farsi rispettare, è molto più facile farsi capire. Però c'è comunque da dire, e secondo me queste cose ci sono anche in Italia, Sì, chiaramente, comunque, sì, anche fisicamente spesso... Io non sono giapponese, non sono orientale, quindi ovviamente mi vedono e mi vedono come un occidentale, quindi a volte questo qua è insomma, mi crea delle difficoltà, magari un muro. Poi soprattutto i giapponesi sono un paese di isolani. Sì. E quindi è, come credo molti sapranno, il Giappone si è aperto circa 150 anni fa all'Occidente, quando gli Stati Uniti li hanno forzati brutalmente, sono arrivati con delle navi da guerra e hanno detto: noi vogliamo fare commercio con voi, se non vi aprite vi bombardiamo. E allora loro si sono aperti e questo ha iniziato, come dire, una serie di eventi a catene, ha portato il Giappone dove è adesso, cioè un paese altamente industrializzato, aperto relativamente all'Occidente, però comunque con una cultura prettamente giapponese. Magari insomma, si può dire aperto più economicamente che culturalmente? Sì, forse. sì, sicuramente, sicuramente. Sono aperti culturalmente, non so, a prodotti nuovi, a cose nuove, però comunque la maniera di pensare, queste cose qua, a fare dei cambiamenti a livello, diciamo, culturale ci mettono molto. Ho capito. Rispetto magari per esempio all'Italia, che essendo collegata al continente è molto più, come dire, molto più aperta, certo, certo, a nuove idee, nuove tendenze, queste cose qua. Nonostante questo, però comunque insomma, anche senza entrare chiaramente nel personale, hai una famiglia giapponese, mi dicevi tua moglie giapponese, quindi insomma credo che anche questo senz'altro ti avrà aiutato molto, no? Inserirti, immagino, nel... Sì, sì, assolutamente. Se io avessi avuto una moglie italiana, per esempio, probabilmente non sarei qui. Ho capito. Perché molte cose sarebbero state difficili, molte cose sarebbero magari state anche impossibili. Quindi insomma il fatto di avere una moglie giapponese mi ha aiutato moltissimo. Certo. Magari c'è anche dei vantaggi, quello di poter vivere in qualche modo ancora da esterno e quindi vedere, non so, anche alcune sfaccettature diverse della realtà giapponese, sì, no? Sì, assolutamente. Quello lì è io lo vedo assolutamente come un vantaggio, perché comunque... per alcune cose riesci veramente a vederle come terza persona da esterno e quindi puoi avere insomma un'opinione molto più critica, e a volte è sicuramente un vantaggio quando magari devi prendere delle decisioni. Sicuramente ti, come posso dire, hai un'alternativa che magari i giapponesi non hanno, per esempio. Non prendono in considerazione, no? Quindi magari anche... Esatto. Esatto. Immagino al lavoro, queste cose qua potrebbe essere una... Sì, e poi comunque la stessa cosa vale anche, secondo me, se io fossi in Italia, se vivessimo in Italia con mia moglie giapponese in Italia, ovviamente lei avrebbe un occhio molto più critico e probabilmente noterebbe delle cose che io, come diciamo italiano in Italia, magari delle quali non mi renderei nemmeno conto, ecco. Sì, sì, sì. Ti faccio un esempio stupidissimo. Sì. Proprio l'altra sera con il mio insegnante di inglese si parlava un po' del più e del meno, e effettivamente lui dava delle letture dell'attualità italiana, nonostante la cultura insomma sia la stessa, diverse da quelle che normalmente si fanno tra italiani, proprio per questo ragionamento che dici tu, insomma. Sì. E magari invece pensi che nel caso tu dovessi tornare in Italia ti può essere utile proprio a livello di mentalità avere sviluppato in qualche modo, conosciuto una cultura così diversa, cioè, a rovescio, sì. Insomma, no? Sì, io molte volte mi faccio delle specie di roleplay, di giochi di ruolo nella mia testa e provo a immaginarmi come sarebbe, per esempio, tornare in Italia, lavorare in Italia. Sinceramente credo che avrei dei problemi ovviamente ritornerei ad abituarmi alla cultura, all'ambiente e tutto, però credo che sicuramente all'inizio farei fatica. Addirittura? Ma sì, perché per esempio io ho notato sul lavoro i giapponesi da un certo punto di vista sono fin esagerati, perché magari prima di, non so, di accettare una certa cosa, o magari se hai un progetto di lavoro, prima di dire che è definitivamente pronto lo controllano magari 50 volte. In Italia magari noi lo controlliamo solo 10. È pronto? Sì, ho controllato l'altro, ma l'ha controllato quell'altro ancora? Sì, a posto, esatto. È pronto. Allora, a proposito, io ovviamente io mi trovo un po' a metà, nel senso che io 50 volte non lo controllo perché insomma ho anche altre cose da fare, però magari 25 lo controllo. Ho capito. Allora, visto che hai introdotto scusate, interrompo un secondo, visto che hai introdotto il tema del lavoro, facciamo che lanciamo una canzone, poi torniamo e ci parli un po' del lavoro in Giappone, ok? Va benissimo, sicuramente. Perfetto, quindi da Tokyo facciamo un salto a Barcellona. Questi sono i Pinkertones. Se qualcuno ancora avesse dei dubbi sul ritorno della new wave, del synth pop, questa era la prova che sta tornando lo stanno facendo un po' tutti, insomma, questi erano i Pinkertones di Barcellona. Torniamo al Giappone, Giovanni. Mondo del lavoro, sì. Ci dicevi. Sì, il mondo del lavoro. Io allora, innanzitutto direi che probabilmente ho imparato il giapponese quando ho iniziato a lavorare. Nel senso che ovviamente la lingua, ma come anche l'italiano, come altre lingue, la lingua che usi sul lavoro è completamente diversa da quella che useresti a casa, soprattutto per il fatto che il giapponese ha tre livelli di come dire, tu parli in una certa maniera, parleresti in una certa maniera con un membro della tua famiglia o con un amico stretto, parleresti in una diversa maniera con qualcuno che non conosci e parleresti in un'altra maniera, che è la più, diciamo, educata, chiamala come vuoi, con per esempio un cliente o un collega nell'ambito di lavoro. Ma va, quindi proprio tre registri belli belli fissi, stabiliti. Esatto, esatto, belli diversi. Poi soprattutto ci sono anche dei verbi, per esempio, che vogliono dire la stessa cosa, ma sono pronunciati, sono due parole completamente diverse che tu usi in due contesti, a seconda del contesto in cui le usi. Ho capito. E questo qua, diciamo che ovviamente ho avuto la fortuna di lavorare, di impararlo lavorando. L'ambiente di lavoro in Giappone, insomma, io dal mio punto di vista di italiano lo trovo molto strano, come probabilmente un giapponese troverà strano l'ambiente di lavoro in Italia. C'è la tendenza a stare molte ore al lavoro, questo qua è una cosa risaputa. Sì. Molte ore al lavoro, però stando molte ore al lavoro non è che ci sia un'alta produttività, nel senso che probabilmente 8 ore lavorate, poi dipenderà anche dai tipi di lavoro, però 8 ore, diciamo, in ufficio lavorate seriamente probabilmente rendono di più magari di 10 o 12 lavorate in un ufficio, in un ambiente completamente giapponese. Ma quindi queste 10-12 ore di lavoro come trascorrono? Cioè, non so, con delle pause, mi immagino, cioè, mi spiego meglio, scusa, perché sì. in 12 ore, in 10 ore fanno meno che in 8 lavorate seriamente, come dici? Beh, allora, questa è mia opinione personale. Secondo me, ovviamente, il corpo umano regge solo un certo tot, ma anche il cervello soprattutto, un certo tot di ore di concentrazione. Quindi se tu hai un lavoro da... se comunque devi stare, se, diciamo, non so, 10 o 12 ore, perché la norma è quella. Ovviamente per scrivere un'email magari non ci metti 5 minuti, ma ce ne metti 15. Te la prendi con comoda... Ho capito. Magari leggi un po' di volte, queste cose qui. Ed è per quello che comunque tutto il tran tran del lavoro viene diluito in magari 12 ore piuttosto che 8. Mm-hmm. Però alla fine il rendimento è più o meno quello. E lo rende anche meno stressante magari questo sistema, più rilassato? Ma allora, dipende dai punti di vista. Io con la mia mentalità italiana del tipo arrivo in ufficio e cerco di venire via il primo possibile, sì. Cioè cerco di fare tutto il lavoro in modo che poi quando è ora me ne vado senza pensare a nulla, questa cosa a me pesa. Immagino, cioè, appunto, non ti manca magari del tempo libero, avere più ore proprio per te, così. Esatto, ma io col lavoro che faccio adesso, fortunatamente... essendo una ditta inglese, c'è comunque una cultura del arriviamo in ufficio, facciamo il lavoro che dobbiamo fare, quando sono le 7 di sera prendiamo e andiamo a casa. Prima facevo un altro lavoro in una ditta, in una grossa ditta di trasporti, e mi occupavo di sdoganamento. Quindi ogni volta che arrivavano le fatture da sdoganare con la dogana, si cercava di farle, ma arrivavano, cioè, senza stop praticamente, e si andava un po' a cottimo, e quello era pesante, perché comunque non il ritmo era molto serrato. Io ovviamente con questi, io e altri colleghi comunque giapponesi, tanto di cappello a loro, anche loro, alcuni di loro volevano venirsene via, quindi cercava di fare il più possibile. Era dura anche per loro. Esatto. Però comunque c'è stato, mi ricordo, io questo non lo dimenticherò mai, sono entrato al lavoro un mattino alle 8:30 e ho messo piede fuori dal cancello che erano le 11:30 di sera. E quindi magari sì, quella volta hai capito il perché degli sbronzi in treno, magari, no? Esatto, perché comunque alla fine hai bisogno di valvole di sfogo. Sì, di un'evasione talmente forte, talmente potente, magari, no? Esatto, e poi soprattutto anche, diciamo, i rapporti tra le persone. In Giappone non c'è molto poco la tendenza a, non dico a dire quello che si pensa perché comunque è esagerato, però a non sfogarsi. Sì. Dice molto molte persone tengono dentro, e quindi se tieni dentro alla fine in qualche modo devi avere una valvola di sfogo, perché sennò impazzisci. Certo. Ascolta, io ho letto anche la tua intervista su www.voglioviverecosi.com, sì, portale appunto dedicato agli italiani all'estero, e mi colpiva una cosa. Dicevi che, se non sbaglio, in una giornata di festa, forse il primo dell'anno, diventa quasi, sì, strano non aver nulla da fare per quel giorno, una cosa del genere, ricordo. Sì, allora, ma questa qua è una cosa che sentito dire, anche ex colleghi dicevano queste cose. Cioè, praticamente la gente sta talmente tanto tempo al lavoro che alla fine, quando hanno un giorno di riposo, non sanno cosa fare, chiaramente, perché non sono abituati a gestire il tempo libero. Se non hanno tempo, per esempio, per coltivare un hobby o magari per ascoltare della musica, cosa fai nel giorno di riposo? Ti metti davanti alla televisione, chiaramente, e stai lì, assorbi questi flash di luce. E quindi io sono una persona che ha tantissimi hobby, mi piace la musica, mi piace passare tempo con la mia famiglia. Io sono l'opposto. Certo. Ascolta, mi dicevi che avevi anche un libro da consigliare riguardo al mondo, sì, lavorativo. Non so se consigliare o meno, perché come me ne hai parlato. Allora, è un libro, è di una scrittrice belga, che era la figlia di un diplomatico belga che ha vissuto in Giappone per parecchio tempo. Probabilmente la sua, diciamo, la sua pubertà l'ha vissuta, la sua adolescenza l'ha vissuta in Giappone, e dopo che la sua famiglia è partita dal Giappone, lei ha voluto rimanere in Giappone e ha voluto, insomma, cercare di lavorare. Lei si chiama Amélie Nothomb, non so la pronuncia esatta quale sia, e ha scritto un romanzo che si chiama Stupore e Tremori. Stupore e Tremori, sì. E parla della sua esperienza di lavoro in una ditta giapponese che importava alimentari dall'estero, prodotti dall'estero. E praticamente lei, la sua esperienza, che è comunque quello che secondo me molti occidentali provano in Giappone lavorando in magari ditte che importano dall'estero, è che loro, e anch'io personalmente, penso di avere una potenzialità, perché comunque conosco la cultura, io conosco quella italiana in particolare, sì, comunque capisco la cultura occidentale, e a volte penso che si possa, che attraverso dei cambiamenti o magari un certo tipo di comportamento si possano avere dei vantaggi, però ci dobbiamo scontrare contro questo muro del culturale all'interno delle aziende, che è completamente giapponese, ed è come si suol dire, scontrarsi a volte contro un muro di gomma, non riesce a buttarlo giù, e questo è un po' frustrante. Lei poi, ovviamente, questo libro, insomma, ti fa pensare, insomma. Lei ha avuto un'esperienza negativa, non a livello del dire, non so, la trattavano male, erano violenti, così, assolutamente no, però di come lei vedeva delle cose, voleva magari fare dei cambiamenti, ma non è mai stata autorizzata, e soprattutto non le è mai stato tollerato il fatto che lei era aperta. Lei ho capito. Ah, potremmo fare così, cosa? No. E la cosa era no, devi fare. Beh, insomma, ti è andata bene al confronto, no? Sì, assolutamente, bene. Assolutamente. Bene, quindi magari se qualcuno ha intenzione, se vuole trasferirsi in Giappone, lo potremmo consigliare. Noi andiamo con la traccia successiva, si intitola Tokyo anche questa, e invece è dei California Wives. Thank you. ultimo tempo di questa puntata su Tokyo di Now Borden. Giovanni, ti devo chiedere un po' del terremoto. È passato ormai ormai un anno più o meno, e devo dire che qui se ne sente poco parlare, anche della questione Fukushima eccetera. Quindi insomma, un anno dopo, come si vive a Tokyo? Ma allora, come prima, nel senso che secondo me la situazione, come la vedo io, non è così drammatica come hanno voluto dipingerla. Era drammatica nei giorni successivi al terremoto, infatti noi siamo ritornati in Italia per circa 3 settimane. Ah, ho capito. Ovviamente cerchiamo ancora di fare un po' attenzione con la roba da mangiare, cerchiamo di evitare alcune cose, però non è che siamo chiusi in casa con le maschere a gas, ecco. Sì, sì. L'altra settimana Fukushima è stata aperta ai giornalisti, quindi è un segno appunto di, insomma, di miglioramento. Sì, questo, e adesso non l'avevo il paese sentito. Sta comunque cercando di prendere una direzione, cercare di non utilizzare le centrali nucleari che non sono, di cui non ci sia bisogno. E nella vita di tutti i giorni, non lo so, può essere cambiato qualcosa, magari appunto anche nella gestione dell'energia, delle risorse, magari la gente ci sta più attenta. Ma allora, adesso ultimamente cercano di ritornare un po' a dove erano prima, però per esempio c'è un po' più di attenzione al consumo di energia. Per esempio in treno al mattino, se le giornate sono luminose, non accendono la luce in treno. Prima magari c'erano i vagoni della metropolitana, diciamo, è come la metropolitana ma che viaggia sulla terraferma. Sì. Praticamente prima, anche di giorno, magari con, insomma, una giornata estiva, c'erano sempre le luci accese. Ho capito. E quindi anche tutte queste cose non servivano a nulla, ecco. Ho capito. E normalmente, non so, anche hai detto che i giornalisti sono stati ammessi ad entrare nella, quindi ci sono anche delle comunità che si interessano, forse, non so, che tengono la gente informata. Allora, ci sono vari canali. Io come canale principale seguo la nostra ambasciata, perché comunque non è, diciamo, un canale strettamente giapponese, e ovviamente sono tenuti a dare delle informazioni limpide, quindi insomma io mi fido di loro, ecco. In Giappone ci sono diverse persone e ognuno ha un po' la sua opinione, insomma. C'è chi pensa che le lobby delle multinazionali, le lobby dell'energia nucleare stiano coprendo, c'è chi si fida, c'è addirittura chi se ne frega altamente e fa la sua vita normale senza badare a precauzioni o nulla. Certo. C'è un po' di tutto, ecco. E dei giorni immediatamente successivi c'è qualche ricordo, non so, qui in... Ma io credo di aver capito che cos'è la paura. Certo, certo. La paura vera. Sì, qui ha stupito soprattutto la reazione immediata anche che c'è stata da parte della popolazione. Non so se è un'impressione che abbiamo avuto noi o se veramente ha reagito così la popolazione. No, hanno reagito tutti molto bene. Non c'è stato panico nel senso che la gente ha assaltato i supermercati, ma facevano tutti la coda per andare a fare la spesa. Non è che c'era la gente magari che si buttava sugli scaffali o rubava, quelle cose non sono capitate, quindi quello ha aiutato molto. Certo, certo, sì, effettivamente è una delle cose che ha stupito di più. Giovanni, siamo in chiusura, scusa se ti ho un attimo tagliato l'intervento, insomma, ti ringrazio anche per queste informazioni, appunto, aggiornamenti su un anno dopo appunto il terremoto. E questo, ti ringrazio per la puntata. Io ne approfitto per dare i contatti del programma. Il sito della radio è www.radiosandona.it. Noi trasmettiamo in FM sui 102 e 200. Il blog dove potete trovare il podcast delle puntate è nowboardingradio.wordpress.com. Su Facebook ci trovate come Nowboarding Radio. La mail è nowboardingradio@gmail.com. Giovanni, stammi bene. Grazie mille per l'intervista, è stato un piacere. Grazie a te. Se rientri in Italia, insomma, buon rientro prima. Grazie. Nei prossimi mesi. Io saluto anche gli ascoltatori, speriamo che i miei colleghi si riprendano dai loro malanni, dai loro acciacchi, e che ritornino al microfono. Mi sono sentito, per fortuna Giovanni mi ha fatto un po' di compagnia, ma insomma io li attendo qui, ecco. Ci lasciamo con Corless, un produttore di Glasgow, Lost in Tokyo. Ci vediamo il prossimo mercoledì. Ciao Giovanni, ciao agli ascoltatori di Radio San Donato. Ciao, grazie a tutti.